Ciao Gia, ci sentiamo di nuovo, alle prossimine, ciao. Ciao Gianni, ciao, dai, sto scendendo a portare il carro, ma sì, ci sentiamo dopo, ci aggiorniamo su MotoZap, ok? KK, ok, a dopo, ciao ciao. Thank you. Io l'ho garantito, garantì a 6 mesi e non faccio brutte figure. No, proprio mai, guarda, niente è garantito, qua. Mi è piaciuto, boh, cosa ha garantito. Se la buon mese si faccia, me lo devi pagarmi. Vabbè, però ho fatto bella figura, ma non frega niente. Io questo adesso, quanto ce l'ho? Grazie a Dio, è perfetto. No, non ho niente da dirle, guarda. Poi vabbè, questo l'ho preso a Sassari, te l'ho detto. Quindi, l'ho preso a Sassari, provato, non mi è piaciuto. Tutto una persona correttissima, e sono contentissimo. Il problema è quando spediscono da fuori, no? Anche se spediscono dalla Sardegna a sud, dalla Sardegna a nord, va sempre a butti dura, o che sia continente o che sia Sardegna. Cioè a questo punto conviene comprare in zona, oppure devo andare a Cagliari, mi scendo in macchina, vado e me lo prendo, perché la realtà, cioè troppe fottiture ci sono. Ma è quello vero, eh. Ma vabbè, adesso mi vedi, quando là io già sono appoggiato a Francesco, mi ha detto sono stato al laboratorio, l'ho controllato tutto lui, se mi dici ok lo prendo, se no Claudio Rusai, Francesco è una persona in gamba, e mi fido io di lui. E la stessa cosa faccio io adesso qualsiasi cosa che devo comprare, io mi metto d'accordo, non devo comprare nulla, ma dovendo comprare qualche altra radio, mi metto d'accordo con Vittorio, no? Con quello del continente, la faccio appoggiare direttamente a lui, mi metto d'accordo e dico posso farti appoggiare, ho comprato una radio da Piacenza, te la posso far mandare lì, posso dare il tuo indirizzo, in modo che appena arriva la controlli, la fai, ti dai tanto, è già pagato, non devi pagare niente. E mi dici com'è la situazione, devo fare così, cioè non si può, insomma ragazzi, non vende una cosa, la vende fasciata, chi da arriverà a radio e non va in trasmissione, chi d'altro arriverà a radio e non funziona il frequenzimetro, ma le cose si muovono i denti. Ecco, e cosa devi fare? Pazienza, queste sono le cose, però non è neanche come dici tu, non è che tu compri, mandi da uno che c'è il laboratorio, la fai controllare, se non va alla radio ti restituisci i soldi, non funziona così, no. Purtroppo le vendite con queste cose così non funzionano così, capito? Se magari ti metti d'accordo e quant'altro, allora la cosa è diversa. Tu mi dici, guarda, io la radio mi appoggio al mio tecnico di fiducia, ma la controlla. Quando la controlla, la posso pagare io a spese mie, le dici, la controlla. Se la radio va bene, buono sono, l'altro la restituisco. Però giustamente magari devi essere d'accordo con chi vende. Ecco come sono rientrato. Ehi, Antoia, vabbè, sì, ma sono d'accordo con te, con chi vende. Con chi vende, infatti. Ecco, bisogna fare così, al limite. Guarda, io te la compro, però c'è un problema. Tu la radio, a mie spese, la mandi lì, la spedisci lì. Poi, se lui mi dice che la radio è a posto, io ti faccio il pagamento. Mi assumo il trasporto, per dire, da Piacenza a Bologna, non me ne affutti nulla. Ok, pago io. Però io voglio essere sicuro che quando la radio arriva a casa mia, io non devo stare a bisticciare con nessuno. È lì il problema. Troppe fottiture ci sono, ma stiamo scherzando. Vabbè, fai così, KK, ok, è entrato anche Bombolino, vai Luca, riprendi che c'è Bombo. Ehi, così, comunque, Ocla, Massimiliano sta facendo il geloso adesso, boh, non lo so io. Ma io quando tu fa vedi, penso che continui a farti sempre i segmentati, non ci compresi cosa ci fa vedere. Che Massimiliano adesso è geloso da Saturnecco, hai capito? Che c'hai tu, e lui lo vuole più bello. Guarda, io ti dico una cosa, sono pronto anche a darglielo a Massimiliano, il mio Saturnecco, se sta cercando Saturnecco, io me ne dico pure un altro, non ha più problemi. Ma no, guarda, io Saturnecco l'ho già avuto, forse anche prima di Claudio, non sbaglio. Io ne ho avuto 3, questo è il terzo, la verità. Uno l'ho venduto a Nino Uno di Ozieri, e l'altro l'ho venduto a Issa Gimbrana di Cosa. Di Claudio Dinamite, capito? 2 ne ho avuto io, 2, e questo è il terzo, ma non me li ho tenuti perché non avevo spazio, avevo talmente tante radio, soprattutto altri tipi di radio. radio che non volevo mischiare. Adesso l'ho ripreso perché ho solo baracchini e sta bene con i baracchini. Io lo sai cosa ho fatto lui? Io avevo comprato il Saturnecco di Gianni, mi pare. Di Gianni Opuro, il primo Saturnecco che avevo. L'ho comprato, ho fatto scambio con un S9 chiuso dentro la scatola, completamente nuovo di fabbrica, con tanto di scontrino che c'ho ancora, lo scontrino ho pintato la scatola, ho fatto scambio, io ho dato il Saturnecco e lui mi ha dato l'S9. Bello scambio però. Tu questo lo conosci il Saturnecco, Luca? Lo sai di chi era, sì? E quale? Questo Saturnecco che c'ho io, lo sai di chi era? Sì, l'ho visto prima di te, là, quello, capito? L'ho visto prima di te, gli ho dato lo strumento, l'ha cambiato anche. Infatti mi ha dato anche un altro di scorta. È nuovo, nuovo, nuovo. Aveva qualche graffio nel case, ma a me non mi interessa nelle maniglie, me li sono fatti verniciare in carrozzeria ed è venuta nuova, nuova, nuova radio. Però nuova anche dentro, non è sporca, non è toccata, non è manomessa, capito? Come ho detto Massimiliano, ma se tu mi dai una radio che c'è un graffio fuori e una cosa si può riparare, capito? Ci sono le vernici, ci sono le cose, c'è la praticità che abbiamo. Magari una radio è tutta buca mare all'interno e devi spendere un sacco di quattrini per mandarla ad un tecnico, è diverso lui, io la penso così. Preferisco prendere una radio graffiata e me la rivernicio, che però sia a posto, veramente a posto all'interno, come una macchina, no? È come una macchina. Quando io mi ricordo ho preso quella 600 che ho comprato, era tutta cuta, tutta cuta. Massimiliano già l'ha vista dall'inizio quando l'ho comprata, poi l'ha vista dopo, però gli interni erano fiammanti, dentro era nuova, nuova la macchina. E riparare una macchina all'interno è un casino, all'esterno pigli e ciambi in bici e li appoggio. Esatto, aspetta, faccio entrare Antonio, a tu. Capa! Non hai più questa macchina, l'hai venduta. Ma io come faccio per tenerla ferma? Io quella me l'avevo presa per andare a Sorso al lavoro, quando ci hanno tolto a tutti le macchine di servizio. Allora mi avevo preso quella, 2 lire, l'avevo pagata 300 euro, mi compresa di passaggio, praticamente regalata, ho fatto il passaggio e boh, me l'avevo regalata. Ma era nuova, un motore nuovo, 32.000 km aveva, era un SX quella, aveva l'idroguida, aria condizionata, vetri elettrici, aveva ammortizzatori nuovi, nuova, nuova, nuova. Questa ragazza alla rotonda di Plattamola l'hanno presa da dietro, l'hanno girata e l'hanno schiacciato tutto il culo. E io l'ho tenuta così perché la macchina era a posto. Prima di comprarla ho suonato la carrozziere per essere storta, ma ha detto no, non Garoni non li ha toccati, ha toccato solo la scocca e tutto. E l'ho tenuta così per un bel po' di tempo, giusto per andare a lavorare. Poi mi sono stufato, l'ho portata in carrozzeria e l'ho fatta fare nuova, tutta nuova, fari nuovi, tutta nuova l'ho fatta fare. E l'ho venduta a 1200 euro, capito? Ad un'amica di mia figlia che le serviva lo stesso per andare a lavorare da Itali a venire a Sassari. E lei è contentissima perché la macchina è a posto. Però quando la macchina va bene il motore, all'interno nuovo, la meccanica è a posto, la carrozzeria si ripara. E così sono il radio. E tutti e due mi dai una radio, come ho già visto in un libro scritto e sottoscritto, no, Massimiliano sta ridendo. Questa radio fiammante, da vetrina, da paura, mai vista una cosa del genere. Dentro un motore in garage. È vero. E allora di cosa stiamo parlando? È preferibile, ma per la mia esperienza, è preferibile avere una radio che ha dei graffi, uno si buono, si è avanti, in nuova nuova, però mi dici guarda, la vedi la radio com'è? È graffiata perché per l'usura, quella è capitata anche a me, ne ho venduto tantissime. Però ti posso garantire una cosa, che questa radio tu una volta che ti vernici il coperchio, te la fai nuova esternamente, dentro non devi toccare nulla, perché la radio è perfetta, così deve essere. Quello sì, ma io rimango sempre del mio parere, per me è un baracchino dritto a un comodino, e basta. Per me, poi giustamente ognuno si ha la sua idea, diciamo così. Del Galaxy, Lu? Per me sì. Anche per me, è un bel ragione, hai detto un comodino, hai detto bene. Guarda, Massimiliano sa perfettamente, io sono d'accordo su queste cose. Però è un base, c'ha tutto, è completo, esteticamente bello. Ma hai detto bene, è un baracchino dentro un comodino. Perché è un Galaxy Pluto, ok, dentro questa cassa. cassa e buco, va su. Che poi non sarò il primo, l'unico a dirlo, ma ci sono baracchini veicolari, ok, che Massimiliano lo saprà meglio di me, che escono molto, ma molto meglio di quello, ok? Stiamo parlando di un baracchino come quelli che ha Massimiliano, eccetera, eccetera. Massimiliano, avanti tu, dai, dicela tu. No, veramente non vi stavo ascoltando per niente, perché mi stavo ascoltando una radio un po' interessante di un amico che l'ha pubblicata, c'è avuto il volume basso, ho sentito solo che questo Galaxy è un baracchino dentro un comodino, poi... Poi ha ripreso Claudio e mi ha confermato che anche per lui è solo un baracchino, come gli ho detto io, dentro un mobile, dentro un comodino, io gli ho detto. Che ci sono però baracchini veicolari come tu hai conosciuto e come tu hai, che escono molto molto molto meglio del Saturn Echo, ok? Ecco perché io sto facendo questo paragone, ma cosa va? Chissà radio di così particolare, per me è un baracchino dentro un mobile, né più e né meno, completo di cosa, anche i veicolari quindi sono completi, che scini meglio, capito? La colonnina verranno i dutti, le bande laterali verranno i dutti, dimmi cos'è che qualche baracchino che non ha quello che è il Saturn Echo. Ma Massimiliano lo sa, dentro qua c'è un Plutomi, è un baracchino, dentro le tugascioni, boh. Ma stamattina cosa ha mai detto tu a me, lui? Te lo ricordi cosa ha mai detto? Ho attaccato, ho commutato l'Inuit 294 degli anni 70, 23 canali, con un MB più 4, cosa ha mai detto? Oh, vedi quante le zero chi su classe gente, pare un K. Certo, questo è il migliore di tutti quelli che stai usando. Ti ho mandato anche il video per farti vedere che non ti stavo prendendo in giro, perché a me non mi piace, anche perché K in questo momento non ne ho, quindi non ti posso prendere in giro. Ma è eccezionale, è un 23 canali, giuro AM, senza nudda, anzi 22 canali, senza nudda, degli anni 70, con un microfono MB più 4 originale, ed esce molto meglio di questo, ma sono d'accordo con te, avanti Massimiliano, confermi che qua dentro c'è un Pluto, così è. A un punto è un Galaxy tutto quello, capito? Vedo tu se prendi un 4CV, un superfato 1009, è un Pluto come il tuo, preciso identico al Galaxy. Tu mi vuoi mascherina e quant'altro, metti questo, la carcassa dentro, è un Pluto, non è che c'è altro, Sì, no, confermo quello che dice Luca. Anzi, forse qualche baracchino veicolare c'è anche qualcosina in più del Galaxy, che non ha. Cioè, è completa come radio il Galaxy, l'unica cosa di comodo, forse magari che lo ha l'aggancio a 220, capito? Si è a posto. Però, anche se ci sono baracchini tipo nuova generazione, del 6009, il 5005, che ha molto molto in più del Galaxy. Anche il Cobra li basta secondo me. Dipende che Cobra. E se vai giù? No, lì ci vediamo in buccia che la butti, ma Pluto, anche la Sonova ci mette in tasca. Vedi il paragone che sto dicendo io, ma secondo me questa è una mia idea, molti si lasciano prendere dalla grandezza di questa cosa e sembra che abbiano chissà che cosa, secondo me così, perché alla fine, come confermiamo, è un baracchino dentro una carcassa, chiamiamola così, dentro un case. Allora, questo è l'Inuit 294, nessuno le può dire niente, no? Ti ho mandato anche il video. Ma è vuoto il Galaxy dentro, se io ti mando la foto di questo che sto usando aperto, va più roba, nonostante sia un 23 canali, c'ha più roba del Galaxy, capito? E quello è il problema, che è solo l'estetica che ci rende un pochino così, ma alla fin fine è sempre un baracchino vuoto, biudo, non va nulla dentro, a chi è biudo? Questo è l'Inuit 294. Migliore Cra, questa c'è una bella modulazione, Cra. Forse ha ragione Luca, perché dice come modulazione è più bella del coso del Galaxy. Io domani a questo li attacco quell'affare che sai tu, no? Quel cicafugetto, capito? Lo faccio andare con una 20-30 watt faccio vedere che questo è il baracchino che userò più di tutti, capito? Più di tutti, perché c'è una ricezione, che non perché ce l'ho io il Galaxy, quindi non è che devo denigrare ciò che ho, ma come ricezione questo 23 canali, se lo metto in tasca al Galaxy, mi sento, ma lo sai come, una cosa spettacolare, ed è un 23 canali, degli anni 70, questi sono i discorsi, che le radio che facevano prima non esistono più. No, ma questo oltre alla ricezione, che io quello lì l'ho avuto, tu lo sai, allora io quello ce l'ho avuto ed è bellissima, c'è una bellissima ricezione e una bellissima trasmissione. Con quel microfono amplificato così, allo Galaxy si rimane, completamente, proprio bello, peccato che non c'ha bande, non c'ha niente, sennò, però come modulazione è molto più bella questa. Questo è un semplice MB più 4 nuovo, manco modificato, niente, nulla, ce l'ho a quasi, più della metà, e il Mickey Gain, l'unica cosa che ha sto baracchino è il Mickey Gain che spinge. Però stiamo parlando di un Inuit No 294 degli anni 70, con una radio molto più completa, non dico di ultima generazione, ma sicuramente superiore come estetica. Ma alla fin fine, come dice Luca, cosa di Naputi dell'estetica? Bravo, bravissimo. Così, vai lui. Vediamo Antonio cosa ne pensa. Antonio? Una gannuata e c'è radio. Questa l'ha già sentita altra gente, infatti Luca stamattina quando l'ho accesa, perché io le tengo tutte accese, non faccio altro che commutare, mi ha detto vai, chi c'è un K? Questo non è K, innanzitutto perché non è un K, lo sai benissimo, non aggiù più. E poi ti ho fatto il video e te l'ho mandato, perché la realtà, cioè quando noi parliamo di baracchini e andiamo a parlare di baracchini di ultima generazione, poi senti una radio del genere, cioè, ma porca puttana, io ho speso 350 euro per un baracchino di ultima generazione, con bande laterali, e triche, ballacche, e questo cazzo, guarda che radio che c'ha con un baracchino 23 canali degli anni 70, ma di cosa siamo qua vedendo? Quando le radio sono buone, hanno sempre funzionato bene nei suoi anni, sono da ammirare, e ben vengano i collezionisti, perché queste sono radio da non buttare mai via. Vai Antonio. Ma claro, come si chiamava quello mio, quello che avevamo dato a Giuseppe, quello di Alghero, quel signore che è morto? Ah, già io me ne ammetto, anche quella è una bella radio, quello c'ha l'attacco del Pony, mi, a 8, questo c'ha l'attacco a Ghiera. Cazzo, non me la metto, ma ci vediamo. Anche quella era una bellissima radio. No, quella era bella, quella c'aveva 120 canali, bella, nuovissima poi, tutta cromata, guarda, me la metto. Mi ricordo che c'era scritto 140, però non mi ricordo la sigla della radio. Neanche io, ma ci vediamo, neanche io, sono passati, è passato un po' di tempo. Questa è bella, questa mi, quando me l'ha data Gianni Capri 2 e me l'ha detto, c'era il frontalino che già hai visto, era bruttissimo, senza scritte, senza niente, però mi ha detto stai tranquillo che alla prima occasione ti procuro il frontalino nuovo, me l'ha dato nuovo dentro la busta, mi, già me l'ha cambiato Luca, è fiammante, bellissima dentro e fuori, nuova, già l'ha fatta Luca, quindi non ti sto dicendo balle, però esce bene, anche se uno come me abituato ad avere radio di ultima generazione o provare tantissime radio che ho provato, modulare con questo a me non mi fa schifo, basta che la gente mi senta, capito? Mi senta bene soprattutto. Ma vi sono radio moderni che sono, come ti dici tu, che sono un montone di garaggio, non escono così bene, no? Ma io già lo so Anto, ma non è perché mi devo vantare di essere chissà che cosa, è perché ho avuto la mia esperienza, capito? Ho avuto la mia esperienza. E siccome mi sono appassionato anche a queste radio vintage già da diversi anni, so quali sono quelle che valgono e quelle che non valgono. Quindi questa, l'Inuit, il Polmar e l'altra, il coso, il pres no, President mi pare si chiami, che è simile sempre della categoria del Tokai eccetera, sono le migliori in assoluto, hanno una trasmissione favolosa, una ricezione favolosa, e quindi di cosa siamo provvedendo? Cioè è chiaro che Luca mi dice che Astro Galaxy è una radio vuota, è un baracchino dentro un comodino, ma ha pienamente ragione, chi è biuda? Se io ti apro questa, non c'è un punto dove tu ci puoi mettere le mani, ed è un 23 canali. Già lo so, già, però non riesco a capire perché fanno delle radio, soprattutto quelle più moderne. Alcune già sono buone, ma alcune non riesco a capire perché fanno delle radio così. Ma perché quella vittino, quel 5005, con l'MB più 5, che si chiama la USA 2 più 4, è stata una bomba sulla radio. Anche quella esce molto bene, ma anche il 3009 esce molto bene, con qualsiasi tipo di microfono, ma sono baracchini che sono nati adesso, capito, quelli di ultima generazione. Perché? Ti devo attaccare l'Elbex, te lo devo far sentire l'Elbex, ci rimani adulti, e cant'anni vaghi c'ha radio, ed è completa quella radio, c'ha le bande laterali, c'ha 240 canali. Adesso sono meno, non sento quello, ma quella radio usciva sempre molto bene, è un po' strana come fare i 120 canali, tutti che si gode, però quella usciva molto bene la radio, quella esce molto bene, non usciva. Quella, se mi dai, guarda, due minuti la prendo dentro l'armadio e te la faccio sentire col 3 più 3, ok, te la faccio sentire con l'MV più 5 e tu mi dici, cazzo, boh, macchina ti rampi tutto e tratti chissà, escono bene, è una cazzata, Massimiliano, ma c'è NB, quello fa il cambio canali, 40 più e NL fa 40 meno. Sono radio buone, sono. Che è fatta blu questa radio? Che blu, ci sono le strisce LED sopra che la illuminano. Ah, un attimo, mi sento. Mamma mia, ora c'ha ragione Claudio già. Ultimamente sono finito in radio, ma caridai, che non manca a roccio andare. Anche queste cose, tutte queste cose che stavo facendo, non lo so, i baracchini più moderni non sono come quelli di una volta. Sì, magari alcuni già vanno bene, ma alcuni sono gustissimo. Non è una radio, un po' allucinante. A te piace? A te viaggia. Che bella. La potenza come ce l'hai? Sempre così, 10. Microfono purtroppo io ho dovuto fare una regolazione un po' particolare, ho dovuto mettere un po' più giù dell'1 perché è un casino con me, perché io ho la voce troppo alta e è un dilemma. Io questo lo stesso, non ce l'ho più giù dell'1, manca 1 arrivi, se non metto 1 è troppo forte, lo fa. Sì, ma io gioco, mangio sempre la cosa di alzare, cioè c'è una voce troppo alta, mi di natura pure, ed è un casino, per quello che ho dovuto abbassare parecchio. Cappa, cappa, non me lo vedi l'80 sotto? Lascialo stare lì. Non si rocca. Cosa? No, quello lo lascio stare lì. Io c'è meglio, esci bene. Quello con l'MB più 5, guarda, Massimilia è una meraviglia. C'è più 4, volevo dire. No, esce bene, dai. Esce bene, la voglia. Sì. Non si tocca. Cavolo, ci picchiamo così. Quei dettagli funzionano veramente bene. Però sono contrario a modificarli, perché quando li modifichi ci date un po' di problemi. Sì, non è che devi modificare più di tanto, già modifichi. C'è da fare un po' vicino dentro al tuo e non mettere una capsula un po', ma cioè nel senso, tu una volta che lo modifichi anche, no? Per essere un pochino più spinto, poi alla fine lo devi tenere sempre basso. Capito? Quando tu lo tieni basso, cioè come amplificatore, cioè cosa lo già fa? Fa tenere un rotellino a 1 o a 2 e di più lo fa. Alla fine 5, sì, a quanto lo devi mettere. Poi ti fa proprio stare lì a frugare a fare. No, non vanno bene i microfoni, il microfono va bene come è nato, mettiti tante che cazzate che fate, no, non mi piacciono. Quel tipo di quello là va bene così. Il microfono deve spingere perché ci va bene la voce, non perché deve spingere per guardare e modificare. Mi sentite? Sì. Questo è l'Elbex con il Tarne più 3. Quanto ce l'ha il Tarne adesso lì? Sempre al primo puntino come uso col Galaxy. Aumenta appena. Così è appena appena aumentato, a 1,5 praticamente. E già pompa già. Ah, il diavolo. Hai capito? Questo tu lo conosci molto bene, Massimiliano, il baracchino, eh? Non è che non lo conosci. Lo conosco, sì, bello. Bella valutazione anche questo. Posso anche aumentare ancora, Mitto? Sempre Tarne più 3, guarda. Quasi al secondo puntino, quasi, eh. Così è ancora più bella. Guarda, lo tiro ancora appena più su, al secondo puntino proprio tondo, tondo, tondo. Così è bella, se la lasci così è perfetto. Così è, guarda. Cioè, di cosa siamo qua vedendo? Di un baracchino, cazzo, 40 canali normali, Elbex 40-82, degli anni 70 anche questo sicuramente, con la modifica dei 240 canali. Voi bisogno di avere tanti gocci, infatti sono quasi 20 modulati. Vendete il Galaxy. Mi vendo tutto, mi sa, e mi tengo un baracchino dentro un garage del comodino. Quanti soldi buttati, cazzo, per carità di Dio. Vabbè, se si deve chiesto, si deve questi tre canali. Adesso arriverà l'altro. Ma appunto arriva l'altro, c'ha la linea completa di quello lì. Si tiene questo, si tiene con 23 canali, anche il Galaxy si può tenere. Non rischio di bombardare tutto secondo me. No, veramente credetemi. Cioè quando io provo questa radio dico, ma come si fa? Ho speso tutti questi soldi in baracchini, in radio, di tutti rimanere, quando basta un affare del genere, 12 watt c'è questa di portante bianca, 18 modulati. Ah? Di cosa siamo va vedendo? Ma c'è il watt regolabile, mi pare, no? Claro, non lo metto più. Ah no, c'è anche il watt regolabile, così sono a il watt a manetta. Ecco qua, così sono con i watt a minimo. Praticamente 3 watt, praticamente controllate, fai da 9 a 9,15 il picco di modulazione. Qua sei 9,20, sì. Potenza piena, qua puoi attaccare qualsiasi tipo linearetto che riceva 15 watt o che ne riceva 5, che ne riceva 2. Ed è un baracchino, ma nuovo, nuovo di pacca, nuovo, funzionante. Allora quanti mesi vira dritta l'armadio, l'ho attaccato l'alimentazione, a posto. Bello, bello, sì. Chi c'era sotto? Antonio, tu fai parlare. Ho detto che fa da qua rimano per 20 e qualcosa. Non va bene. Ma è giusto così una prova, tu a me non me la futti nuda di arrivi 9.30, 9.40, capito? Ma quando tu ti sentono bene di Radio 5, arrivi anche a Santiago 3, ma cosa di una futti, ma va bene lo stesso. E va bene sì, la lettura a Muros, 9.5 e Radio Bomba. Ma io questo posso anche cambiare l'antenna, metterle quella, l'altro tipo di antenna dove c'è il 747 attaccato e diventano 80 watt, ma cioè non serve proprio a niente, capito? Era giusto così per farvi capire che qualsiasi tipo di baracchino, se esce bene, buono, venuta la va, capito? Bene raga, a me mi hanno cambiato, ho chiamato per la cena, adesso le 9:10 vado a stuzzicare qualche cosetta, tanto come al solito, se poi mi entra anche Massimiliano, magari ne entra qualche d'un altro, siamo qua a fare due chiacchiere, KK. KK, vai. Vai, claro, ce la risentiamo alle prossime. Ce la risentiamo più tardi. Oh, la prossima, non c'è problema, è già. Già vado in tutta tesi, no, che. Avanti, Massimiliano. Così poi cambio magari. Collego 747 e vediamo se lo porta bene. Ciao Massimi, ci aggiorniamo dopo, vado a mangiare un boccone, dai. Sì, vai, non c'è problema, vai, vai, tanto io. Devo salire a Sassari verso le 9:15, vi arrivare. E quindi ci dobbiamo sentire dopo le 10 se ci siete, sono a banale. Ok? Allora un po' siete andato Luca, vai Luca. Luca! Luca non c'è, è andata a Porto. Prima sei andato a girare la salsiccia. Sicuramente girare la salsiccia. Non ve la più in macchina, non ne muore più. Cosa tu? Non ne metti più in macchina. Di che cosa? Del baracchino. Assolutamente, non lo vedo. No, non lo metto, tanto anche perché non fa, capito? Una macchina ci ho parcheggiato tutto il giorno. Le parcheggi e non lo vedo da fare, no, non lo metto tanto. Ho capito. Non ha tennino, ce l'ho me, c'ho anche la tennina. C'ho la PMC Minox, la 600. Una sessantina di centimetri, ma non la metto, cosa non la metto a fare? Non so. Vabbè, comunque già bella, dai. Sì, magari lo sai che cos'era tu, prima era bella perché ce l'avevate voi, ce l'aveva Giuseppe, ce l'aveva Gianni e qualche un altro in macchina, e quindi tra di noi andava bene, ci volevamo quasi tutti i giorni, tutti i sabati, ma penso non ce l'ha più nessuno in macchina, ma noi si cosa come rifare, ogni volta dovevo fermare, attaccare l'antenna, tu bello, no, tu. Ah, vabbè, va. Cappa. Ora un po', vabbè lui, ripreso, vabbè, sicuramente Luca è cenando, sicuro, Massimiliano. E tu hai cenato, hai, Anto? Ci abbiamo mangiato un panino. Ma il vicino li prendi? Da Marcellino l'ha pigliato, lo conosci? No, non lo conosci. E lo fanno qua, in Corso Vittorio Emanuele. Ha chiamato, me l'ha regate. No, non lo conosco, Anto. No. Sì, vabbè, guarda. Sì, almeno non sto lì a cucinare, a fare, no? Ascolta, è fiaco di zintola, per me. Sì, a me è già fiaco di zintola, mamma mia. Mi ha dato il brutto, chi c'è deodorante, chi tratto di baracette. Io ho sfruttato la scala che mi fiaco di guru, ma... Che schifo, via. Ma in quanti siete che abitate in quella palazzina? Noi siamo... Allora, quello di giù è Sassariso, in questa palazzina qua è solo, e poi c'è un'altra scala, cioè, e noi siamo gli unici italiani. Spiegati giù, diati un bel. Tu conta, allora ci siamo noi, quello che c'è a fianco e l'altro che c'è entrando dalle scale e l'altro che c'è più su. Da poi io so venne. Un altro bianco di brava e un altro da Sariso. No, ma sopra di te abita altra gente, perché no, ho a fianco. Sì, abita un ingegnere. E quindi vi siete quando c'è la loro di fame? Sì, è più misciato con un bianco di un guru. Vabbè, va. Vabbè, quelle palazzine così, altro, sono tutti ricchissi. Sono pieni di mau, che. Scatta, basta di, ne ha giocato un'antenna dello televisore, ma non lo sapevo però. Ma chi? Ah, il ghiaccio che faccio di fronte. Come mai? Perché si è guastato lo spartitore, io l'ho giocato diretta, non lo sapevo. via, e siccome c'è anche una presa qua, pensavo che era di Chiesa Brescia, invece era la Brescia Giulia. E ti sei incasinato. E poi gli ho messo cosa, No, gliel'ho ripiazzato, ho comprato la Fuggiaro, l'ho ripiazzato, vai contento. Ah, ma non è che la c'è questa televisione, non mi va tutti. E me, Ari? Sì, vabbè, sto chiudendo, va. State a vedere tutti. Vi saluto, alle prossime. Non c'è problema. Ciao, ciao. Ma ho già avuto la salì. Cosa? Ho già avuto l'altro giorno. Di cosa? Praticamente non me ne sono accorto, ho perso in contemporanea. Ha ciambato un microfono, un audio. E il microfono normale come ti esci? Ma che ne sabbia, sta brava a parlare. E invece mi stessi drudrudio. Sì, ragazzi, anche di volare il gabbo. No, l'ho fatto apposta. Stai attento, qualche giorno devo toccarti la portata in solita e accendere e spegnere la luce, mi usare. E sentite dei gnicchi gnicchi. E infatti? La sardia ho provato lo box. E anda? Già anda, già, solo che si trovano metti che già messo in occhi. Ah no? Sentite dei gnicchi gnicchi. Schiacco di berizzella! Che cosa bella la Sardegna, tutta questa è stata di classe picchi d'indi, davvero, Vabbè Luca, ebbene tu, molto un vinello buono, buono, buono, ciao Massimiliano. Ciao Lu, vabbè, a posto? Tutto a posto, niente l'ordine, di zia Ghiddu. Ma oggi nulla, no? Oggi nulla cosa? Quello che mi manda tutti i giorni. Ah, l'ho mandato! Aspetta, poi se me l'ha mandato, aspetta. Aspetta, oggi Luca, vogliamo andare puntuale, più o meno. Oggi Luca. E chi cosa ti manda? Mi manda il bacino la mattina, capito? Cuoricini su WhatsApp. Ma sabato oggi? Allora, adesso lo mando Massimiliano. Adesso... E chi froscio è? Sono un bel stanco. Sto riprendendo praticamente, Mi sto riprendendo. Adesso te lo mando, sì. Oh, ok, cos'è che hai detto tu? Cuoricini, cazzo. Sei froscio, te l'hai detto lì, più che altro. Vabbè, ma perché è male vuole essere frusci? Cazzo, cosa c'è di male? Ho capito, Allora lo so fare in treccio. Ma che tu sei un po' froscio? Ma tu abbi con Luca, ma tanto si può muovere solo a me. Gente è colpa mia, a un certo punto. Non ti dico più niente, fa far culo. Per me sei maschio, non sei femmina, quindi a un certo punto... Cioè, il discorso è quello che dico, Massimiliano, tu sei d'accordo con me che bisogna essere anche un po' frusci nella vita, è vero? Ah, pigliala in culo, mamma mia, cazzo. Ah, parlo con Luca, cazzo, Luca. Ah, ti sto prendendo per il culo, non sono a modulare a Massimiliano, che se poi si incazza e... Cazzo, sai che te ne butta l'antenna, Massimiliano. Butta per l'antenna, aiuto, forza. Adesso però, veloce. Massimiliano te la butta, non io, adesso stiamo modulando a lui, aspetta un attimo, Massimiliano. No, vi ascolto io, vi ascolto. Cazzo, la domanda Massimiliano, tu mi devi rispondere alla domanda, dice sto prendendo per il culo, prima inizia a buttare le battute pomponi e poi dice lo stiamo prendendo per il culo, ma tu dici cosa tu dai. Vabbè dai, l'ha fatto così, dai, non l'ha fatto per innocenza. Mica sei cazzato, mamma mia, cazzo, ma c'è una scena, sì. Pomponi la pedivella! Hai visto? Allora va pa' il culo. Che di bella. Massimiliano, sei arrivato? Ti bruciano per carrozzella! Allora, mi è arrivato. Ma dai, parla con me, siamo in c'è gente in ascolto, io e Marcello Pompo, non mi dici così, dai. Vabbè, mi ha fatto dire lui, a un certo punto cosa volevo dirgli? A un certo punto. La risposta applicata per quello che mi ha scritto lui, ma per altro. Vabbè, comunque sia, chiuso così, non mi ricordo. A un certo punto io non ho detto bussi di niente, buon po', Vabbè, non ti preoccupare, colpa mia, fregatelo. Io ho fatto la domanda, non sto dicendo niente, boh. Ciao Tino. Tino. E non dire Tino. Ma niente da Tino. Immaginario c'è stasera. Vabbè, Tino è... ho visto delle foto della salsiccia, cazzo, belle. Belle. C'è anche la salsiccia, la pensa se le vuoi, Amarico di baracqua. E c'ho veramente la salsiccia, mi sarà quel pompo. Metti 2 centimetri, ti basta. Aspetta, vedi così, che mi scappa la pista. Perché c'è il servizio è buio, per fare la salsiccia, quindi se la vuoi, non c'è problema. Che la faccio fare? Un pugno Gargamella! Lui, lascia la sei pompo. No, ti lo sta... sta confezionando salsicce e si aveva diviso con i morti. Ma oggi l'avevo visto al giornale, non mi sono dimenticato di mandarlo e sono stanco, sono anche, sto invecchiando pure io, cazzo, prima del tempo sto invecchiando. Ma c'è giovanotto ancora, sono questo ragazzo di Ugine, ragazzi, insomma noi siamo tutti un ragazzo, no? Ma conoscevi lui? Il giornale? Visto un fiore con Virdis. Presente, non l'ho manco visto? Aspetta. No. Era di Usini, no, Massimiliano, che sono giovane anche. Mi sembra di conoscerlo. Vabbè, comunque va vediamo le TV, va là. Quindi Pompo, questa salsiccia com'è? Secondo me è buona, la verità l'ho vista, ma secondo me è buona. Mi sa che ne stanno prendendo molta, anche non ti dimentichi un paio di quintali. No, perché c'è un amico io che ha uso da fare con la... con Finocchietto, hai capito? Quindi è totalmente diversa, la uso lo fanno totalmente diversa, qui c'è il Finocchietto, c'è il vino in mezzo, quindi a gratis la verità, perché gliela pagate i vecchi, e che altro, e qui non pago un cazzo, mi viene gratis. Ah, il Finocchietto c'è, vabbè, è pure no che voglio andare di lì. Diversa la questione, fatto in mezzo Finocchietto, eccetera, eccetera, poi, vabbè, adesso non so cosa sia, ma c'è Finocchietto, beh, me la regalo, capito? Questo amico di uno, io lo vecchia, tipo a parte CB, eccetera, eccetera, gli ricordo la mia zia, facevano, mi dà un pochettino di roba e mi dà la salsiccia. Allora gli avete portato la carriola, questa farà TV, mi voleva far giù i quintali con i finocchi anche, però mi fa tirare, così li assaggiamo anche noi. Ma lì c'è la tua riserva? A Marco. C'è la riserva? Sembra che questo con la razza di vino, oggi le allucinazioni. Comunque io sto bevendo un vino, tu? Dimmi, sono capito niente, avete fatto in tre, avete parlato. Ho detto, sto bevendo un vino. Dimmi tutto, dai, no. Cazzo, Pompo. Dimmi tu. Ho detto che sto bevendo un vino, vino ne hai? Non ne ho vino, non me ne frega niente a me nel vino. Cosa c'è da bere, roba buona? Birra e basta. Cazzo, la birra d'inverno non si impara. Meno Massimiliano. Boh, c'è una po' che non è tocco, non è sto più bevendo, non vino né birra. Adesso sto bevendo a Vovo. Cazzo, Vovo. Avanti Franco, buonasera. Buonasera a tutti. Noi sto bevendo questa vodka sarda, mi. Pure Feo diceva quello. Ciao sei sta vodka sarda. Ciao Fra. E beh, tu. Buonasera Franco. Ma si vede, hai visto Gianni Cigaretta? Cigaretta o sti cazzo di giovane, ma di malacchini che ha messo? Ho visto. Un mese alla piccina, ma un banco buono da racchie. Ciao Fra. Vabbè Massimiliano, sei d'accordo? Sì, quello che ha posto, l'altro appoggiamo al muro perché si attacca a lei. L'altro già rimane così, No, stavamo facendo spiegare la... Ma con buono, già oggi non ce ne fanno le salsicce con i finocchi. Sì, sì, no, stavo ascoltando, mi piace con, la, con i finocchietti, ma sempre che non ne mettono tanti, dai. Pure a me mi piace molto, anche a me, quella tipo di salsiccia, con finocchietto selvatico, anche a me. Ma con buono è un'altra cosa, però, No. La salsiccia con finocchietto selvatico e anche addirittura il vino, quindi figurati tu, lo fa Salisi, se vuoi sapere, Salisi. Ma selvatico poi è un casino anche a farlo però, a prenderlo. No, ma ci mettono oltre il finocchietto, cos'è, Ale, cos'è la tua roba che mettono in mezzo? Certo, ascolta, mi in culo. Ah, boh, cazzo mi dici così, ma là, certo, boh, cazzo, ma un po', ma, boh, io non la pone abbia tutti, io ho 7. Ti va a far culo, tu e quello che pensi tu, fregate. Ma adesso metti a bere a tutti, io ho 7, va bene, va bene in cucina, là, cazzo, basta di rinvare, ma un po'. E pensala così, fregate. Cazzo, c'è la scena, non paio non offri a bere, boh, mai mi ha fatto bere a me, mai, mai, addio, sono l'ubito andato a levare il rubinetto, mai, e poi mi dà bere ogni tanto. Avanti, avanti, fra, poi ci vengo con i botti, va. Ah, io ho bevuto vino, qui non posso mischiare con la birra di Pomponio. Io ho bevuto niente, la verità, senza Dio, quindi sono a posto. Pompo, allora fa una scommessa con me, io me ne levo le calze senza levarmi le scarpe, scommetti. Poi le fate quello che vuoi, qual è il problema? Vieni qua e te ne levi. Ho detto, tu scommetti con me, io me ne levo le calze. Scommetti? Tra giù che vuole la radio da 500 euro che stai vendendo? Guarda, questa questione aveva 500 euro, sai, già l'altra volta ci sono dei problemi, già lo sai anche tu, quindi non ingrandire la cosa, già lo sai anche tu, quindi a un certo punto lascia perdere di questo giorno adesso, che hanno detto che non esce a schifo e quindi siamo a posto a un certo punto. Ascolto basso, ho capito, c'è il volume alto, alto, avvicina la bocca al microfono un po', non stai facendo ben basso. Vabbè, tutto è bello, sono comunque sia, non me ne frega niente, Luca, sto uscendo bene con questa parico qua, non lo vendo, hai capito, ho già regalato, quindi non lo vendo, quindi metto in testa tu e anche gli altri che lo volevano, quindi l'apparato che sto usando adesso, regalato, hai capito, a Mario Mansell, quindi metto bene in testa, quindi a un certo punto se non sentite adesso, a un certo punto avete capito, 5 minuti, 1, 2, 3, 4, 5, l'apparato, il discorso è quello, non è roba mia. Allora, diglielo a Mario se vuole un VLU, Bofeng, facciamo lo scambio, è nuovo, la scatola, il microfono ti do, io ho pagato quasi 50 euro, facciamo lo scambio, dimmi, subito, mi. Domani salgo, mi viene la radio e ti porti via le Bofeng, io. Ne ho Bofeng, ne ho quanti ne vuoi, ne ho 5 addirittura, ne ho 5 Bofeng, c'ho Bofeng, c'ho tutto, quindi non mi interessa niente, di quella parte là non me ne frega proprio niente, l'ho già dato, quindi basta, me l'ha pagato Mario, quindi cosa devo fare, cosa faccio? A un certo punto me l'ha pagato in contanti, non ho capito. Ma io fa 26, 27, 28, 29, 30, 31, 82 mega il Bofeng, se il tuo è uguale al mio. No, mi interessa niente, cazzo, ce l'ho anch'io, cazzo, non me ne frega niente fa. A me va anche in malata, sì, no, pizza non ne fa, no, fa la fede. Vabbè, non niente scambio, vabbè. Comunque Pompo, se vuoi fare un altro scambio con me, mi dai la radio e ti do lo zip. Ah, lo scooter. Guarda, non me ne frega niente, l'ho dato questa cosa, Mario Manso, sto fuggendo. Cazzo, e non te cazzo che insiste? Insiste che tu un coso col figlio di Mario Manso, con Davide, chiami a lui e l'apparato è suo, chiede a lui, non c'è problema. Sì, ma scusa un attimino, Mario Mansell, cosa ce lo fa se non fa più entrando in radio? Michele, vabbè, dai, Massimiliano, riprendi tu, va ben mio, non come se mettiamo di svino, va. Ti conviene, guarda, per dimenticare, guarda, la verità. Aspetta, stava parlando a Bombolino, avanti, Antu. Ho detto, Mario Mansell, cosa se ne fa se non fa più entrando in radio? Non mi si dice. No, sto dicendo a Pomponio. Dimmi, Antu, pensavo che stessi dicendo agli altri, la verità. No, ti ho detto, Mario Mansell, che se ne fa se non fa più entrando, non sta facendo più attività. Me l'ha pagato e basta. Me l'ha pagato il figlio, più che altro, capito? Lui fa la raccolta di apparati, grazie a Dio. A me per 3 milioni i soldi, io sono a posto, capito? E cavolo, c'è un miliardo, un apparecchio che non so prende attività. Ma perché gli altri cazzo? Quanti parecchia gente cazzo chiedere perché cazzo non lo vende, eccetera, eccetera, capito? Il discorso è quello lì. Adesso vediamo un po', se decide di sistemare l'antenna, soprattutto quello che è, sistemare quello che è. Adesso lo vediamo un po'. Questo non dipende da me, grazie a Dio, dipende da lui. Speriamo che se la rimetta, perché da parecchio che non lo sento. Infatti me l'ha detto. Faccio entrare anche in cose, in PMR, qui devo sentirmi PMR, quindi a un certo punto. Poco, cosa ti è rimasto di radio? Mi sembra un radio, ma radio serie però mi. A me non mi è rimasto proprio niente, la verità, ho dato tutto. Io per te, non facciamo un affare, io siccome birra non sto più bevendo, sono due casse di birra, quelle grandi, dell'uno spin, una radio in cambio un foglio. Io ne ho 4 Heineken. Però non è in vivo, non è in mezzo, le piazze chissà. No, ma l'ho offerta a te. Asco, io c'ho un asio per farti fare il culo tutti e tre, quindi a un certo punto fatti fare il culo davanti a me e siamo a posto, vi regalo anche gli apparati, ci state? Vediamo un pochettino, se siete... Non c'è problema per quello, quindi in pratica io vi do gli apparati, li porto giù lì al... dove ci sono gli animali, vi fate fare in culo tutti e tre, vi va bene, davanti a me però, e vi faccio anche il filmato, e se no, non... Ah, io ci sto, dai, ci sto, dove? Sono questi animali, io, dai, ci sto, dove? Ah, io che ci sono ragazzi in ascolto. Dove? Ho osservato, io lo sai. Papà, una pavivella! Ti goce. Ah, c'era, come si è fatta la cocaina stasera? Vabbè, là, ci sentiamo ragazzi, io chiudo, ciao. Ciao Massimiliano. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Via, ciao Massimiliano, ci sentiamo. E noi a Pompolio, bisogna inventarlo ogni volta. Pompolio, se muori ti inventiamo, No, non dipende da me, sei tu che devi fare le cose, no? Non da me. Io non ti ho detto niente, sei tu che le cercate. Ma Pompolio, sincero, ma tu con cuore sei? Cazzo, mi sei... Per carità, guarda. Ma che così basso è radio? Perché cazzo che non bevo cazzo a qua vita? Forza però, ripetere sono sano. È venuto lì, capito? Sono basso, sono basso. A parte un po' di meno. Sarei mazzato, cazzo, con la zappa, cazzo. Pompo, la qua vita non mi piace, ma io vino, qualche birretta così, ma niente di... Guarda, qualche crema di whisky, una così, una... dipende da quello che mangio anche, dai, se mangio roba pesante, giusto per... come cosa, come digestivo, ecco, chiamiamolo così. Ma roba pesante pesante no, tipo whisky così non ne bevo. Mi la quarraggia bevo l'estate, fresca però. E il diluente nitro? La quarraggia? Io la già va bene per te, a voglia. E poi mangio sempre di Baresi. E qua ti mangio un rodino di marmo. Ah, a quanto sei qua buh buh oppure se mi rimanesi trovi l'offerta.